bombolissimo. Maria, buonasera. Aspetta, svegliato ti sì. Sì, abbiamo svegliato. Però un po' che si svegliava. Non è tanto bene. Sa. È da parecchio un accendente. Comunque, tutto bene, sì. Sta in ferie, sì. Sono in ferie. Bene, bene. Che Galassi c'hai, no? No, no. Ma già ce l'hai ancora, gatto? No, non è più. Che tu l'hai dato? Ma non è che l'hai dato a Pomponi? A qualcuno lo stava. E vabbè. E cazzo, un bel apparecchio quello lì, eh. Un bel apparecchio, sì, ma è qualche altro. Io lo so, ma solo, almeno non c'era problema di alimentazione, e no, è bella, e Galassi è sempre bello, anche se è marrasone, però anche la ricezione è un bombone, eh. Ma con la nuova omologazione o l'omologazione vecchia? No, la roba vecchia, la roba nuova, la norma c'è. E non so che si chiede, ma c'è questo lì. Non so che si chiede. Ah. E io mi avevo preso di qua, ecco. L'899 ho preso. La promologata. Ehi, dell'Inter che. Dice il buono, questo è l'Inter. Quanto ha fatto? Ma è già un po' morto. Ah, è bestemme, basta, no? No. Bande non ce li hanno. Allora AMFM là. Le bande laterali non ce le ha quello. Ah. Bene, bene, dai, esci bene, là. Ma l'ha abbinato qualche microfono amplificato. All'originale, cazzo, sembra amplificato. No, la cosa è questa, però la cosa è questa. Cazzo, si sente bene. Bene, bene, va bene, adesso ti devo lasciare che mi stanno chiamando. Dottore Squalo. Non c'è sti, sarebbe Franco California. segnale treni 3 e Yamaha Radio già il 4 comunque. Kappa. Già va bene, meglio di niente, già. Come non sta usando un altro? Via Bombolomi. Ebbene, il demonio. Demonio. Bene, bene. Allora, le buone subito, cazzo, che so questo tempo di merda, cazzo. Qua su, piove, 10 minuti, in 4 ore, fa fulmini, tutto fa. Poi, cazzo, tu, ne va da tutto, ma non c'è più niente. Io ho fatto solo fulmine e basta, non ho fatto altro, ma si può dopo la cementeria in pratica si vedeva. Deve essere che ha piovuto parecchio lì. Però allora il pranzo, a mezzogiorno ero in via Levante, ho sentito tuoni, fulmini, e gli ho detto cazzo adesso devo pigliare il tram. Se mi arriva un fulmine qui mi fa secco prendere il tram. Se non sa che lì è pieno d'alberi in realtà, dove ti tappi? A meno che non va dentro, come si chiama, all'hotel. Qua è pericoloso, c'è cioè, anche attenti quel fulmine. No, se ne ho visto che sono stati in quella zona. Niente, uno l'ho volato, ma questa è, stava se calmato. Non so se anche lì è così. Infatti si è calmato adesso. Io ho fatto a mezzogiorno, io sono andato da USP in via Verona, sono fatto la spesa, sono andato lì al circolo d'accorso da Ricco, ho bevuto la birra, si può dire veloce, e il cuffuri e incomincio a sentire questi tuoni, controllo c'era l'aria nera proprio all'altezza di quello che gli ha buttato giù, se si sposta ancora, detto, il temporale arriva qui, e dentro il cavolo mi tappo io, non volevo l'ora che arrivasse il tram. Sono effetto rodiente, era pro. E sono fulmi, uno appeso all'altro, addirittura anche orizzontali, non solo verticali, li ho visto, roba che non risulta, ne sono scesi parecchie. Ne sono scesi, uno dopo l'altro, si ogni zocco, boom! Dove c'è il ripetitore alla fine di via Milano, quello è il ripetitore del come si chiama, del cane salato, di quello che è morto. Anche compreso, sì. Ne ha fatto parecchio, in confronto a oggi manco la metà ne ha fatto oggi. Avanti Franco, California, ci sei? Con California? Sì, è entrato poco fa, con il polo. Ma infatti si è in varia, bene già, e già fuori. Non l'hai più. quasi 5 di segnale. La radio 5 è buona. E a me come la radio? Buona, sì. 7,5 sì. 7, radio 5, ma più buona amplificata o normale? Ma no, è amplificata la radio. Io sto utilizzando una radio normale, parecchina normalissimo. Sì, esatto, lui c'è che c'è la radio. Io sto utilizzando l'Alfa Yes Deos. Sì, il vigile mi ha fatto una goccia d'acqua. Fate gliela davvero, quando piove va a Sassari. Dalla parte di qui. Di cosa? Della foto si manca una goccia. Caldo e basta, c'era, non c'era altro. Stava dicendo Antonello Barracuda ieri sera, dice, che ieri sera grandine Eva a rotta di collo, dice che non l'ha mai vista, ma una squacciona come ieri. No, grandine non l'ho visto qua, l'avevo fatta senz'altro via Ussi, perché è alto, non è che si abbassa dove abita lui, è ai livelli del, come posso dire, delle... ricetto ecologico più che altro, no? E lì ha fatto grandine e forte, via Ossi, però ricetto ecologico nulla, non ha fatto, ha fatto solamente piovuto e basta, ricetto ecologico ieri di qua ha fatto un sacco di acqua, poi qualche cosa l'ha fatta lì alla, a metà stanza di vecchio e basta neanche, ci è arrivato mi sembra neanche a Cacciello, figurati tu qua. Oggi invece nulla, non c'è neanche arrivata qui dove sono io. Ma ha mai detto cosa fa? Aspetta, no, che ci vediamo non aspetta, che fai in questa zona, sopra, scatta, chiesi, chiedi, questa zona, scatta, buon nanna, sta tutta la serie di rovianto, sempre in quella zona. Carico. Vabbè, Gianmaria, allora, cosa mi racconti di quello? Sono Zefra. Ma non è sì. Ma è un po' sordo questo apparecchio. Cosa mi racconti di bello? Di bello niente. È per le solite cose, basta. Sto a cambiare, non è più, né di meno, né di più. È per le stesse cose. I travati, zoppi, zoppi, a me, di sempre. Magari durante il giorno tutti lavorano, chiaro, ma la sera da questo dalle 6 poi fino alle 8 c'è sempre gente su 23, dai. Tra poco entrerà Torres qua, entrerà Marino, entrerà Bacchizio, così che c'è anche gente. Magari qualche sera capita che non c'è nessuno, ma è... però già c'era gente. Però solo la sera, durante il giorno, manco un'anima. Oltre i 9, sì, dai. Sei oltre i 9, per cui la radio è buona. Va bene, solo che lascia la portata e c'è il ruggito dell'alternata, sì, c'è l'alternata, ma metti, no, adesso non c'è niente, bene, bene, giù, giù, dimmi tutto. Aio, sveglia, svegliati, la guerra è finita. Ma il Galas c'è. Cosa c'ho il caos? Ho detto se c'è il senso il Galas. Non sto usando il Galaxy, sto usando l'87. Va bene, va bene. Adesso lo attacco il Galaxy Saturnetto. Così lo faccio sentire a Franco. Beh, Franco sì. E tu cosa mi racconti? Che ci sia la giangiata, appunto, a viaggiare, meglio viaggiare, ma sei sempre in tournée, così via. E lo so tutti se lo possono permettere, no? Dai, dai, finché la marca va bisogna lasciarla andare. Ma se lo pensavi, dai, sta bomba. E allora, per carità. Ci ha comunque, in campagna. Ah, sei dottore Squalo. Caglio due. Oh. Come se 5 a Bova. Adesso sono dove stato lungo. Fa passaggio più lungo. 1 sono 2, sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Già va bene, dai, c'è le calecca, c'è il pesce, però già va bene. Certo che va bene, a tonnetto. Uia. Piano, si sistemano le cose. Si sono sistemato, cambiato tutto in me. Quando la potenza che non funzionava, che non si era alto, e poi è l'LC. È stato eliminato completamente. Ci sono sempre le cicliche, c'è solamente la MC inserito, che è perfetto. Eia, eia. Tre piedi, riprendi fra che mi assento un attimino, va, è caduto fra qua al fuori. L'avevo telefonato, ovviamente. Attenzione, canale 23, si ascoltate la riso di Sardegna, fa chiamata. La matta che viene scelta. Avanti, ciucucciù. È fuggito. Stai accordando, ho le stazionali, sto controllando. Beh, ogni volta che cambio l'apparecchio devo fare quel lavoro. Ah sì, è vero. Purtroppo, ma almeno lo sai a distaccare TL e tutto quanto, capito tu? Ho capito. Adesso a posto. Uno, va bene? A voglia. Va benissimo. Bene, beva. Oh, cazzo, c'era Tonello, c'era California, c'era Antonio Bombolo. Tutti a Parigi, so. Sì, vabbè. Sai cos'è? Quando comincia a piovere le lumache si ritirano. E tutti si stavano lamentando, e non c'è nessuno. Ecco, già entrano. Prima bisogna sentarlo. Già due volte, ti puoi immaginare. Sì, vabbè. Quando se uno si deve allontanare vuol dire fare cosa. Infatti. C'è sempre qualche cosa da fare, allora bisogna sentarti per forza. O che ti bussano alla porta, o che entra qualcuno, o cosa l'altro, c'è sempre cacchi in troppo per sempre. Andave. Non ne vuoi fare, Eva? Se stanno lì sopra, A noi l'unda se la do, l'unda. Tragitto, se fai sabbatti e per Eva. Lunga lì. Ma domani dice che ha messo acqua, boh. È così, però, dove però? Sì, speriamo che faccia qua, no? Se per l'altra parte. Quello è da indovinare. Grazie, allora, agita se fa l'ora, ragazzo. Allora, fate un po' che c'è zora, ragazzo. Allora. Oh, dice, adesso mi piace farli dall'altra parte, dice, ciao, la faccio anche da fuori, però cado via da dentro, capito? cosa mi vuoi fare? non possiamo fare niente, no? Bisogna andare dietro a pregare, a far leva, ma io le spende, ma un difoletto però. Puoi dire che c'è una che devi fare? Ma non lo so io, boh. Cazzo, pure la malasera. Dici che ha carregato la rotta di collo. Ma immagina, e io che sei secchi, cazzo, boh. Vuol dire che toccava quella parte che doveva fare. Ah, ma di aiuto, va. E cosa vuoi fare? E tutto tocca a lui. Va bene, e non c'è che poi si riesce. Ma se vuoi fare, faccia quello che vuole. Pazienza, barrio. Mio marito, pazienza ci vuole. Ma l'abbiamo troppo pazienza, ragazza. Io avrebbe rinfrescato un pochettino, va, che ci vuole dopo tanto di quel caldo. Permetti, ragazza, che ci voleva anche un po' di freschetto qua, almeno in questa zona. Sì. Iuia. È una gara e basta, ecco, non una gara. Cazzo, non ti tracco molto, cazzo, però già mi sto rilassando adesso, là, sono rinfrescato, bello, adesso sono tranquillo, cazzo. Gio Mari, piano piano, chissà che non faccia e noi non ce ne accorgiamo. Vuol dire, basta l'altra, questa. Passa le piano piano. A Maragana basso. Già. E tu cosa hai combinato oggi? Sì, andato a prendere un coso. Un battrabano invece non ne ho trovato. Se non l'ho acciappo me lo ordino da fuori, me lo ordino. Qualche posto penso che lo trovi, eh. Sì, il trappano a colonna sì che l'ho trovato qua, ma non mi serve un trappano a colonna a me mi serve un supporto per il trappano. Ah, eventualmente lo cerchi lì per spiegarti solo lì. Li ho trovati, però io lo volevo trovare qua per cosa, ma invece non sono riuscito ancora a trovarlo. Trappano a colonna ho trovato, c'è da Lido, Bicome e altri posti, però quello che voglio io non l'ho trovato ancora. Magari ce l'ha qualcuno, qua. Sì, magari ce l'aveva qualcuno, ma Sarradu. Ah, così, allora, allora per la pagusì, tu sai che vedi chi s'abbatti. Già la ciappi che da l'Inter avvisò, sui B guardi a te. Sì, non solo sui B, ha già avuto il suo amato nel muro. Così che già si trovano. Certo, magari devo stare mandando, cercandolo là o cos'è l'altro, se c'è qua il meglio là. Infatti, se c'era qua era stato meglio, sì. E poi va a chiedere, magari chiedendo anche qualcuno, magari lo sa, qualcuno lo vende. Boh. Lo sto cercando piano piano, fratta non ne ho. Da portarti a Serrano? No, è la propagazione, Gio Maria, è la propagazione che si sta tirando avanti. Ecco, perfetto devi segnare. Allora, forse sono in FM. Sì, sono in FM, sono. Ecco perché. Te io li sento forse, sette i segnali. A me è salito sino a... sì, è salito. Ma sicuramente in FM. Infatti. Perché rimane silenzioso, capito? Mentre invece quando è normale c'era leggermente QRM, mentre invece in questa maniera sta eliminando il QRM, capito? Infatti, ti elimina il QRM, però sotto un po' lo sento io. Si sento, là, si sente bassi, però io si sento. Infatti, aspetta che chiamiamo il signor Marchisio Silve, si riponde dalla macchina. Signor Marchisio! Ha detto che no. Un po' come andrò, mi hai divertito il Marchisio, Sì, questa sera sta diventato un po' mandroni. Bisogna tirargli le orecchie, che non va bene così, No, lo so. Qualcuno ci ha messo il BMR. E chi è il BMR? Non lo so. Qualcuno sta chiamando Antonello. Ciao Mari! Sì, Vito! In FM sono, però sono, devi darsi che sono turchi, ricomprendo come ti va a vedere. Ma me l'ho immaginata, me l'ho immaginata che sono in FM, perché mi annulla tutto il QRM, capito? 6, 7, 7, 8 arriva come segnale. Ti arrivano furti, arrivano, infatti ho messo in FM e li ascoltavo furti. Sono in una lingua che non conosco. Lasciamoli parlare anche a loro. Tanto non ci stanno disturbando, per cui specialmente oggi non ci stanno disturbando. Magari l'altra sera, gatto, arrivavano furti. Gatta, gira sopra Murla con questi qua. Quando arrivano furti non c'è nulla da fare. Noi lasciamo parlare anche a loro, cosa deve fare? Non è che tanto vai a parlarci sopra e succede un patatrac anche da parte loro come da parte nostra, e per cui lasciamolo parlare, e ce ne sono altri canali, per cui non ci siamo un problemi, perlomeno per me. Infatti, problemi non ce ne sono. Ma... Eia. Attento, signor Marchisio, cambio e passo. Sì, sono una manco piazzato in macchina del baracchino, te lo dico io. Sicuramente mi hanno assudato. E allora, ho ancora zappende, gatta, boh. Ho innaffiendi. Tanto che la faceva, così che poi forse deve innaffiare, io. Si può avere qualche cosa in introito, bisogna che si andia da fare, capito? Attacca il boss e in a piedi. E sapeva. Purtroppo è così, non c'è niente da fare. Infatti, noi già li lasciamo fare. Così che non è che ci interessa più di tanto, capito? Infatti, più di tanto non ci interessano. Allora, uso io. Sempre bene questa radio? A voglia. 9.30 più Radio 5, perfetta. Allora, siamo contenti. Bel lavoro, guarda. Ci è uscito un bel lavoro, dai. Almeno non ci sono più problemi per adesso. E speriamo che non ce ne siano più. Se no mi dava fastidio, con tutti i sensazionali che c'erano. Già c'era l'accordatore, però quando tu c'hai molte sensazionali e li butti in terra, qualche cosa non è normale, capito? Non è perfetta la radio. È quello con le stazionarie, no? Devi tenere anche basso di cose, del radio. Sì che abbiamo fatto un bel lavoro, là. Va bene così. Adesso che abbiamo il posto? Quei capi d'acciaio anche, capito? Anche i capi d'acciaio mi rompevano per magari facevano massa, capito? E vabbè, è giambato tutto, è giambato, quindi, a voglia. Da parecchio che non dovevo cambiare quelle tre tirate, cazzo. Meno male mi sono riuscito a ciamballe, cazzo. E va bene così, dai. Va bene così e sono contento. E va bene, infatti un fatto non vi ben si piova. E infatti. Sì. Solo che dalla Manzo Paura l'ho tolto quella fascetta e l'abbiamo messa su. Adesso mi manca sulla Manzo Paura, c'è la pepura del cambio, cazzo, di una Manzo Paura smontata, la zaccata l'ha già di lungo, magari c'è la bella rimusa e mal di zaccata. Ma già si trovano delle fascette a Puglia, basta adattarne una. Devo andare a Bricco, prendo quelle strisce larghe e gliela faccio piano piano, siamo appena in magazzino, e gliela faccio precisa come c'era. È l'unica soluzione quella lì. Solo che devo andare a prendere i dadi di tutti gli acciaio inossidabili, capito? In modo che non si arrugginiscono, capito? Infatti, mio far così bisogna fare. Anche quei dadi che ci sono sui radiali, capito? Anche quelli che sono inossidabili, capito? Perché quelli che ci sono in ferro e sono tutti rugginosi. Già camminano bene, però io li metto in acciaio adesso. Sì. Si andrà alla pedrania e da cascarli. Un giorno che sei lì, se te lo ricordi, devi compareggi. Eia. Attento, signor Macchisito. Marco Marino oggi, Deve essere indaffarato, deve essere Marino. Quello se passi da parte lo trovo con la zappa in mano sotto l'albero. ma oggi preferono per me, oggi è tutto un colore. Ma lui è sempre lì, gatto. Boh, se te sto dicendo, tutte le volte ho passato, ho trovato con la zappa in mano dritto a mantenere sotto l'albero. Boh, chissà cosa fa senza il saibolo. Boh, ora mettetevi che si gocchia l'albero. Andate via, andate, per carità, gatto, non si deve le pile dell'ala, gatto, non c'è niente, chissà cosa combinando, vai, invece, io in affiene, Marino, con la zappa in mano, e lui se che da Eddie, e è di Lugu. ma già si va a intendere, ma chi se ne andendo? Ma chi già va? Si posa in macchina fra poco e rientra. A 10 ha sentito la parecchia, vedo se c'è a Faggio Maria e a Salvatore. Oh, dirà tutta sai, boh. E mandroni. E cosa ci volere fare? Ma quando lo sento nel canto 2. vabbè, già si fa sentire. Vediamo un po', adesso chiama Marino, attento, signor Marino, chi sei? E ce la fa. Ieri sera, e ha fatto una bella chiacchierata a lungo, Cazzo, come sta a fare da ogni tanto gli assalonga pure questo, Infatti, già c'era anch'io quando poi ci siamo assentati. È un siccità dritta, la siccità manca, c'è la forente. È un canale diventato solo un soletto. Sì, ma stasera già rimaniamo in una stessa ora. Attenzione, signor Bacchisio, se ci sei avanti. Non vada va, eh. Sto dicendo, è diventato madrone. Lascia che lo sentiamo, va. Nel canto 2. Caccia voce bella io. Giulia, che andiamo a andiamo. Allora, chi sono tutti i tornì? Luca del Monte, che di gioca, Luca Frifero, con il saccatore in mano, cazzo. E gli altri, boh, chissà cosa sono combinendo. Ehi, andare, arrivi l'inferno. E di freddo, a voi fare freddo, cazzo, di sacciare attaccati così, di fare freddo, capito? Allora, cariche cose gazzi. Sì, io ho il PL difettoso. E come te mai? Gonfiato ci sei. Buonasera, guarda, ho acceso per caso, perché con questo cielo c'è il terrore dei fulmini. E questo PL, non lo so, si è dissaldato il centrale, tocca e non tocca, certe volte mentre parlo sparisco di segnale, quindi rischio anche di bruciare i finali. E ti dirò che non aggiungare, no, dissaldare tutto, rifarlo. Guarda, io con i cavi sottili mi sono sempre trovato bene, ma con questo cavo grosso mi trovo veramente male a saldarlo. Buona idea. Beh, già ce l'hai il saldatore. E già sei tre giorni che ha saldato questo pezzo, ancora non l'hai saldato, non lo so io. Boh, anche tu sei diventato poltrone. Ehi, ma lo sai da quando è che non saldo? Proprio non... Questo cavo è rigido, mamma mia, allucinante. Vabbè, a saperlo era meglio l'H155 che ha le stesse caratteristiche e stessa perdita o guadagno, se lo vogliamo vedere da quel punto. Chi è che ha inveito dall'altra parte? Chi è? Ho detto punta Biarritz. Aspetta, non ce l'ho l'altra parte, scusate, dai. WhatsApp perché mi vuole chiamare. Dai, Giovanni, che io qua preferisco staccare, non mi fido molto. Finché c'è il cielo nero sopra non mi fido. Dai, ci sentiamo un altro giorno, ciao. Ciao Tore, ciao a tutti, ciao. Ciao Marco, ci sentiamo. Ok. Piglia il saldatore, saldatroma. Almeno sei tranquillo. Chi era l'altro? E da per Paolo, cosa sa? Sa che non c'è buono, per quello è. Non c'è buono a saldare. Ciao Giammagli. Ciao Tom. Ciao Giulio, ma è la stessa seduta oggi che ti sento un po' strano. E come ti senti? Non ho letto la tua solita radio squillanti oggi, non so, forse stai provando un cacca di giro. Ogni tanto ne trovo fuori uno, cosa vuoi fare Giovanni? Mi ha dato che due muro, qualcuno ogni tanto non funziona perché ho troppo tempo fermo, fa vecchia. Il segnale è buono a 10, ma la radio è un po' bassa, so come lo senti? No, è lontano dal microfono, io lo sento lontano dal microfono. Ecco, infatti allora non è da me, è lui, il microfono allora, io cerca di sollevare appena la voce allora. Se, capito mi hai? Capito zio, capita, dunque... Così adesso me lo mangio questo microfono. Un po' duro è. Un po' duro è. Giù. Ma ci sentiamo ugualmente, anche se basta per la radio. Già si vede che si sente che è chiaro, dai. Avanti tu. No, io lo sentivo in fondo alla camera, lo sentivo. Basta, ma in fondo alla camera però. Aspetta che sta maneggiando. Orneggiando sarà adesso, dopo si fa sentire. Ieri andava più bene, oggi invece è troppo basso. E adesso come mi senti? adesso sì che sono io. Non è che è migliorato molto, appena ma non molto, vero so. No, da me ha migliorato parecchio. Lo sento bene adesso. Ah, beh, lo senti tu. Allora parecchio un po' sordo. Una bella. Ciao Marino. Buonasera. Ciao Maria, beh, tutto bene? Sentito che non mi sente bene Gio Maria. Si vede parecchio sordo. Come metto il volume, Gio Marie, vedrai che mi senti. Ti sento, ma di solito si sentivo, può essere anche l'apparecchio mio, Deve essere la ricezione dell'apparecchio mio, non lo metto in dubbio. Capitano anche queste cose, da un apparecchio all'altro c'è sempre qualche differenza di audio. Buonasera signor Marino, ben entrato, avanti. Ancora Gio Maria, buonasera anche a Tore. Questa è la solita voce di Giulio, è bella squillante, bella, poc'anzi la basta ma è una bella pulita, dai. Ok, avanti Torricino. Buonasera Marino. Così è, andava così. No, da me sta arrivando, poi c'è qualche volta fai delle cose, di scariche. Siamo qui ce l'hai, con me o con Giulio? Con Giulio. Cos'è che le scariche? Le scariche? Qualche volta ti escono le scariche. Va bene, dai, capita, dai, lasciamo scaldare. Allora vedi che era proprio 6 anni questo. Come minimo, forse anche di più di 6 anni. Allora non parlo più, non dico più niente. Allora, ma tu ti credi che sono come Marco, che ha il piede di soldato e non ha gara di soldato. Marco, soldato va questo piede. È un po' con noi animandroni, mamma mia, saldare un piede, cosa ci vuole? Marco! No, deve essere che ha chiuso, che teme i fulmini. Sarà quello, la sua paura è quella. Avrebbe pare che è ossessionato dallo fatto dei fulmini, capitina. Ma non è che se li sta cercando, no? Che poi qua a Sassari ce li abbiamo di tirafulmini, quindi non c'è da preoccuparsi per quello qua. Nella zona mia ve ne so 4, ve ne so. Appunto, perché se ti puoi immaginare. Allora fa una cosa. Dammi uno a Marco di Barabulmini, così allora può gli passare l'ossessione. Anche nella zona sua dovrebbe esserci. Secondo che la zona che è dovrebbe esserci vicino. Lo Cappuccini, ci sarà Cappuccini in chiesa, ce n'è. Certo che c'è un grillo. Sì, c'è la Cappuccini, nella chiesa ce l'ha la chiesa dei Cappuccini. E i parafulmini. Certo, ce lo credo. Va. Comunque. Andare, Caio Marie, canta, che hai bella voce. Marino. Chi era lanciato, a me o a Marino giù? A Marino, ma non risponde. Riprendi tu Gio Marino, vai. Si deve essere assentato, Si deve essere assentato. Mi sembra che tu ce l'hai in vicino, due, un paio vicino di parafulmine, no? Sì, infatti ne ho due quassù, che sono tutte e due in un palazzo. Bisogna abbracciarmi. Sì, ci sono. Uno l'ho visto lì, il vasto della freccia. E l'altro è più sotto, se non sbaglio. Sì, infatti è così. Ok. Vabbè. Che cose mi farai a fare ugualmente? Un anno e farà due in un grattacielo. Dalla padola la mezza cabina dell'ascensore. Sì, sono quello, ohia. Altro che farà bubine quando uno ha la disgrazia di incrociare sotto, ohia. Altro che non può essere quello farà bubine. Per carità. Qua grazie, mi sembra che ce l'abbiano le suore lì. Sì. Ma altri non li ho visto, Altri non li ho visto, però c'è quello del pazzo della freccia, per cui siamo vicini. Certo. Ma sapete, per sapere più o meno a che distanza è il temporale, come si fa? Cioè quando noi sentiamo un suono, no? Supponiamo caso, perché dopo il suono c'è il lampo, no? Se dopo il vuole, il lampo ci impiega, che so io, 3 secondi, tanto per fare un esempio. Allora, per calcolare la distanza, che distanza è, si fa così, si fa 330 per 3, e dunque significa 1 chilometro di distanza più o meno. A riuscire, beh, aspetta che ti sento quando sulla finale fa crack crack crack giù il microfono, perché è il microfono vecchio, cosa mi fa, lasciamolo fare. Questo qui è il Constant 25B valvolare. Aspetta che abbia apparecchio, può essere, dice anche l'apparecchio vero, però riprendo un attimino. No, io guarda, qua vicino io l'ho visto scendere, e se l'ha tirato il parafulmine, se l'ha tirato, l'ho visto scendere e se ne è sceso lì, se ne è sceso, e non ha fatto nulla, non ha fatto in zona. È da parecchio che qua no, li vedo quando scendono, scendono sui parafulmini e basta. E invece che ha parlato, io che butti mi ha bruciato 4 cose, ti puoi immaginare, sta giunto non fa 4 cose, il router del computer, un alimentatore da 25 ampere switching, un baracchino o Telstar Lafayette, e uno o Midland 78, perciò ti puoi immaginare, 4 un colpo me l'ha bruciato. Certo, no. Quando non varani, se no anche parafulmine vicino, no, bisogna stare attenti, bisogna stare. Ma qua vicino già ne abbiamo, quindi no, è che cadano qua. Questo è successo un paio di anni fa, 2 anni fa, all'incirca, 2 anni e mezzo, poi preciso conto. È sceso un fulmine a 300 metri da dove abito io, sull'antenna della TV di uno che era appena pochi minuti sceso da sopra il tetto. Guai se lo trova lì, lo fa rosso, lo fa. E oltre a quello che ha bruciato a me, ha bruciato anche il compressore di un'officina di gommista che c'è a 800 metri di distanza da dove sono io, e più il gruppo elettrogeno della pasticceria che c'è qui vicino a me, senza contare poi tutti i frigoriferi e scaldabagni, cose che non ha bruciato quel giorno qua, ha fatto un disastro, ha fatto qui alla, ma addirittura anche alla Telorcia ha bruciato qualcosa, proprio per effetto di quel lampo lì. Sì, un paio d'anni fa quando era sceso, non me lo ricordo allora, che era sceso anche al latte dolce, era sceso e aveva bruciato un poco di roba, ma già c'era la chiesa, sì, che se li attira, come ti mai non ha azionato? Ripeto, quando si tratta di scariche così potenti, figura di esempio sul rubarabume, tu pensa che in quella casa dove è caduto fuori aveva l'attacco del gas, no? Quei tubi che entrano poi dentro casa, gli ha incendiato il tubo, proprio vi ha atteso, sono dovuti scendere i pompieri per spegnere qualcosa lì, perché era diventato pericoloso, si può immaginare, per dirtene una, no? Si mangia un ferro, si mangia il cimentalmato, si mangia tutto, quello che incontra trova e brucia tutto. Avanti Gio Marino. E sono rientrato. E qua ti sento più chiaro. Cioè, perfetto, era l'apparecchio mio, la ricerca di quell'apparecchio mio, che è malogno, che qua è perfetta la radio, bella, forte e chiara. Ok, io vai. No, stavo raccontando del fatto del fulmine che è successo un paio di anni fa, che mi ha bruciato una marea di cose, non solo a me, ma a tutti i butti ha bruciato un bel coso. Capito tu? Si può immaginare se ci vuole il parafulmine, cosa parafulmine, oh ya! Manuele cosa l'ha bruciato? mi pare abbia accendiato il contatore e era bomba dell'Eva. Ah, ma dove l'aveva riannunciato? Intanto il posto a sonda, il posto che aveva, no? Che poi tra l'altro ce l'aveva in condominio con un altro di una campagna vicino, a turno prendevano l'acqua, prima uno poi l'altro, primo. Il contatore della luce che aveva dentro la cabina, fortunatamente la cabina della luce era lontano dalla casa, gli ha fatto il contatore, gli ha fatto esplodere. Il pezzo più grande era quanto una moneta da 5 centesimi. Cazzo, farà 2 vecchi per farato. Vabbè, lì paga lei, ne paga, quindi le cose glielo cambiano subito. Sì, quando sì, sentato, quando gliel'hanno cambiato subito. Ma per dirti, no, proprio è esploso, come se chiede adesso una bomba senza un buttatore. Gliel'ha fatto tutto a pezzettini. Il prezzo più grande era quanto una moneta da 5 centesimi. Forse lì, in quel contattore lì, forse se era in campagna, lì c'era un'antenna attaccata, un'antenna dell'Ene sicuramente. Questo non lo so. Sì, hai in campagna, a Pileghetto. Lui abitava a Pileghetto, è morto ormai, morto già 7 anni, per cui ti puoi immaginare. Lui ha... aveva un baracchino meraviglioso, che gli aveva venduto Gio Maria, tutto bello, il Saturnecco, che usciva, che era una meraviglia, una radio così bella, chiara, pulita, proprio adatta alla sua voce. Te lo ricordi, Gio Maria? Io l'avevo venduto l'FT della Sommerca e il Galaxy Saturno, ecco, l'avevo fatto nuovo, erano, il Galaxy era nuovo, certo. Chissà che fino hanno fatto quegli apparecchi giù. Ma Laura, la figlia mi aveva detto, siccome io in quel periodo che lui è morto, io te ricordi, ero appena uscito dall'ospedale, anch'io l'ho recuperato. Due giorni prima avevano fatto il funerale di Emanuele. Sono andato io per trovarlo e mi sono messo a voce dal cancelletto. Emanuele, è uscita la figlia, è uscita. Emanuele purtroppo è morto. Morto? Come morto? Sì, morto. Ci abbiamo fatto, a Valdiera abbiamo fatto il funerale. E mi ha raccontato tutta la scena, no? Mi ha raccontato. Poi mi ha detto che tutte le apparecchiature, che aveva anche il TS2000, aveva, oltre ad alimentatori e anche altri baracchini, eccetera, se l'aveva, era venuto un parente dal continente e ci aveva portato via tutto. Ultimamente aveva preso i 2000, mi sembra, dalla Chiesa aveva preso. Infatti mi ha telefonato una sera che voleva provare l'anno. E usciva bene, l'ha provato e andava bene. Era il 2000 della Chiesa, non voluto giù. Sì, l'avevo girato io stesso, era rimasto in bottega da me. L'aveva pagato 2.720, una cosa così, un sacco di soldi costava. 1.500 subito all'ordinazione, mi ha fatto un versato, aveva spedito 1.500 euro appena ordinato, e il resto quando è arrivato il pacco, direttamente che ha portato Paco, ma non lavora al corriere, capito io mai? Comunque era attrezzato bene, era attrezzato bene, per cui non gli mancava niente, era contento di ciò che aveva, per cui usciva bene. E mi dispiaciuto veramente che non lo sapevo io questo particolare. Non lo sapevo, l'ho saputo, mi sembra che me l'hai detto tu, mi sembra che l'hai deciso. E se no sarei andato in schia a trovarlo. Certo. Mi è dispiaciuto veramente, purtroppo magari ce la fa il numero di telefono, ma evidentemente non ce la faceva nemmeno a trovarlo e non poteva telefonare, non mi ha fatto sapere niente. Se no sarei andato ben volentieri a trovarlo, perché era un amico, dai. Sì, beh certo, e ormai si era malato così in poco tempo, purtroppo, perché alla fine poi non guidava più Giovanni, era col bastone, era. Aveva avuto il morbo di Parkinson, aveva avuto, era caduto una prima volta e si aveva fratturato il polso, e ce l'aveva ingessato il polso, ce l'aveva. Dopo un po' di tempo, mi ha raccontato la figlia Laura, è caduto di nuovo, è caduto, e si era fratturato anche l'altro polso, si può immaginare. Poi in pochi giorni, in poco tempo è morto, poveraccio, una bravissima persona, un amore di uomo, veramente in gamba, educato, rispettoso, proprio in gamba, molto, ma molto in gamba era. L'imprenditore. Purtroppo. Gesù Cristo ci porta via i più buoni, andiamo via così, piano piano. Sì, e beh, purtroppo sì. Lui era nato a Valle d'Olisi, è nato in Spagna, ed è venuto in Italia, perché la madre è spagnola ed era Sassari. Era, e anzi in quel periodo, la madre, proprio nel periodo che lui è morto, la madre era in campagna con loro perché era ricoverata a San Pietro, era ricoverata. Siccome San Pietro avevano chiuso l'istituto, allora è dovuta rientrare, se l'ha presa in custodia la nipote, la figlia di Emanuele, se l'ha presa. E tu pensa, Giomarì, è morto prima lui che la madre, per dire, no, e la madre era una donna grande, una donna che avrà avuto, non so, ma vicino ai 90 anni era. Ma infatti io non ho saputo più niente, per cui prima magari ci incontravamo di più, dopo magari che io ho avuto quell'incidente e già mi sono anche trascurato io anche delle di avvisare certe persone magari, e per cui mi è dispiaciuto comunque, dai. E infatti la madre è ritornata a casa sua, così che l'attendevano tutti, la figlia di Emanuele e lui, capito? Era sacrificato perché tutte le mattine doveva accompagnare anche i nipoti da una parte all'altra, era molto sacrificato e magari non stava tanto bene, ecco. Beh sì, perché abitava in campagna, perché la figlia aveva la casa nella stessa campagna dove ce l'aveva lui, uno a una cosa ce l'aveva, a 20 metri l'uno all'altro queste case, più o meno, anzi forse meno di 20 metri. In una casa abitava la figlia, nell'altra abitava lui, abitava. E siccome c'erano nipoti che andavano a scuola e la figlia non aveva la macchina, allora lui che aveva la macchina accompagnava i nipoti a scuola tutte le mattine. Andava, li accompagnava, li portava, poi li prendeva e li portava a casa. Tutti i santissimi giorni, ma questo è successo per alcuni anni, perché erano ragazzi, per cui avevano necessità del passaggio, perché abitando in campagna a Filigheto, in via degli Olivi, non era tanto vicino, era abbastanza lontano. Come facevano questi ragazzi, soprattutto d'inverno, a venire e andare a scuola, perché a scuola erano via Sacro Cuore. Registrati brevi. Infatti, si dava da fare, per cui era sempre impegnato da una parte e l'altra, poverino. Poi anche con quella gamba non è che poteva camminare tanto, anche se c'aveva ancora le bastone, però dava molto fastidio perché c'aveva ancora il ferro, mi sembra che non gliel'avevano tolto il ferro, se non sbaglio. Ok, c'è stato un break, a te farò entrare, vai. Sì, avanti il break. Oh. ciao Franco, la radio buona, la musicata, ciao Franco, salutoni, vai. Va benissimo, io ti sento benissimo. Va bene, sono più lontano di Gio Maria, di Tore, adesso ti do, ti passo l'ora e vediamo un po' come ti sentono. Vai Gio Maria, come lo senti a Franco? Ehi, più bene di così. Va bene, fa già bene, Fra. Va benissimo. Oh, qui siamo vicini di Natale, per cui arrivi fortissimo qua. La radio è buonissima, per cui non ti dico il segnale perché è sempre il solito. Se 9:10 è sempre buonissima. Vai tu. A me arriva benissimo. 9:10 è radio 5 perfetta, buona. Fra, buonasera. Ok, riprendo io allora, Fra. Sì, sì, va benissimo, la Puglia funziona benissimo con il polo, non ce ne sono dei problemi. La radio è ottima, chiara, bella, forte e anche amplificata, per cui meglio di così. Vai Tore. E la Puglia, a me arrivi benissimo, arrivi. Vabbè, se la riprenda signor Gio Maria. Ok, la riprendo, ma devo chiudere. Mi stanno chiamando, per cui ciao Fra, ci sentiamo. Alle prossime, buon finimento. Ciao Giù, grazie per la piccola chiacchierata che se breve fa sempre piacere, dai. Buon proseguimento anche a Tore, Marino sei ancora in ascolto e se rientra Macchisio salutami e gridalo, sgridalo perché non è entrato presto. Ciao, riprendi tutto, dai, riascolta per il finalino e chiudo. Ok, ciao Gianmarino, ci sentiamo domani, alle prossime. Ok, Marino, ci sei ancora? E intanto io saluto Gianmarino, ciao Gianmarino, salutoni, grazie a te per la chiacchieratina, alle prossime, dai, domani se coincide. Vediamo un po' se domani possiamo sentirci un pochino più presto, così facciamo una chiacchieratina un pochino più lunga. E anch'io sono molto, tanto sono quasi le 8 meno un quarto, là, è appena passate, perciò non è che mi posso trattenere molto. Di solito qua, non sai, sono le 8, si va al desio. va bene. Marino, ci sei? Ok, riprendo di nuovo io. Allora, Marino, quanto sei andato, sei assentato? Evidentemente è col nipotino che sta giocando. purtroppo così. Vai, so. Vabbè. È da presa assenta. Aspetta, adesso c'è Bacchisio. Perché entrava invece, non si è sciappato con qualcuno. Faccia il signor Bacchisio, non da lavare, riprendi giù. Ma oggi si vede che non ha acceso, Se no io, anche se mette il baracchino in macchina, già appena che apre bocca lo sento subito, perché qua arriva bene anche quando è in campagna col baracchino, perciò non ci sono problemi. Evidentemente oggi non ho avuto voglia di accendere e allora ecco che non si è fatto sentire per quel motivo lì. Bene. E allora fa, cosa bisogna combinare, amante? Ogni tanto tu sparisci, ti fai sentire e poi sparisci. Sì. Già funziona fra, problemi non ce ne sono. Già va bene, però andava bene anche il primo passaggio che hai fatto, era ultimo. Il primo passaggio era perfetto, non c'è nemmeno caso di mettere l'eco, perché è già amplificato, per cui va più che bene. Avanti tu, come lo senti tu? Ciao, chi era quello? Prova a parlare che non ti ho sentito bene. Tutti hanno capito, scusate se ho entrato così, tutti hanno capito, ancora non hai capito che sono. E chi te l'ha detto a te? Chi te l'ha detto a te che non ho capito? Io, cosa dici? Se io ti dico Antonio Bombolo, cosa ti dico io? Capito? Io ti posso ascoltare anche dopo fra 20 anni e capirò sempre la tua modulazione, stai tranquillo. Ma non solo la tua, quella di tutti. Se dovessi entrare un CB di 20 anni fa e farlo a baracchino, al primo colpo potrei anche lo sentire, ma dopo ascolto con attenzione e lo scopo a tu. Ciao, avanti. Scusate, sono entrato così in prefettura, adesso ti devo lasciare a mangiare. Ti ho sentito che ho voluto salutare. Ciao a tutti. comunque, continuate. Ok, ciao a tu. Grazie per essere entrato a salutare. Allora, dai, ci sentiamo alle prossime. Fatti sentire anche tu, che sei proprio... ho diventato un eremita, non so se più fatto in TV. Ogni tanto, ma... mia moglie il babbo però, eh. Va bene, dai, avanti Tore. Sì, andare... ogni tanto già si intende. Andiamo e andiamo. Ma mi pare che è diventata anche un'altra persona, non so, boh. Cosa hai detto, portatore? Non ho capito. Cosa che sei entrata anche un'altra persona più bassa. Ah, beh, buonanotte. Vediamo un po' se c'è, avanti, se c'è qualcun altro che vuole entrare su questo canale così, così brutto, canale 23. No, no, no, non volta nessuno, così non è una gara. vabbè, pazienza, dai. Vabbè, dai, io... Ci sentiamo, siamo qua, alle prossime, e allora quando sei libero fatti sentire, sei sempre ben accesso sul nostro canale, sul canale di Dio Forti, canale 23, su Susanna di Rocchi, e tanto siamo sempre qua e basta. Ciao Tore, grazie per la chiacchieratina, grazie anche a te, a Franco per essere entrato a me a salutare, a Antonio Bombolo, Gio Maria sei ancora all'ascolto, Marino, eccetera, eccetera, quanti ce ne sono. Salutoni a tutti, ascolto prima Marino, poi chiudo, vai Tom. Ciao Giulio, ci sentiamo alle prossime. Ok, va benissimo. Franco, ancora ci sei? Ok, Fra, ci sentiamo alle prossime allora. Va benissimo, ciao. Ciao di nuovo, Fra, alle prossime. Ciao, ciao, Tore, alle prossime.